storie italiane. Il regno degli sciocchi. C'era una volta in un regno lontano un re estremamente sciocco con i suoi ministri altrettanto sciocchi. Mio re, perché non facciamo una legge che dice che ogni volta che non riesci a dormire, tutti nel regno devono cantarti una ninna nanna? Un'idea così sciocca. Non tutti hanno una bella voce, lo sai? E se quelli che cantano male rendessero il mio sonno ancora più difficile? Vostra Altezza, le persone si lamentano del fatto che il cibo è molto costoso. Solo i ricchi possono permetterselo. Oh cielo, cosa mi consigliate? Suggerisco di rendere tutto il cibo disponibile al prezzo di una sola moneta. Splendida idea. Sì, facciamo questa legge. E tu che cosa hai da dire? Mio re, vorrei dire che sei anche più grande di altri re. Dimmi qualcosa che non so. Beh, stavo pensando che non dovresti governare come fa un re normale. Allora, perché scambiamo il giorno con la notte e la notte col giorno? Oh, mi piace davvero questa idea. E presto fu fatta la legge e tutti ne furono turbati, anche perché se non avessero obbedito al re, questo li avrebbe puniti severamente. Quindi le attività commerciali erano aperte durante la notte e le persone presto si abituarono al nuovo stile di vita. Tutti, anche gli animali, dormivano durante il giorno. Un pomeriggio un saggio andò con il suo discepolo nel regno. Fu molto scioccato di non vedere nessuno. Strano. Pieno giorno e non c'è nessuno per strada. Cosa pensi possa essere successo? Non saprei, maestro, ma potrei davvero fare colazione ora. Ah, pensa a qualcosa di diverso dal cibo, puoi farlo? Vagarono fino a quando finalmente iniziò a fare buio e furono estremamente sorpresi di vedere le persone uscire dalle loro case. Dormono tutto il giorno? Che regno strano! Osservò le persone mentre svolgevano il loro lavoro in modo totalmente normale. Oh, le bancarelle del cibo sono aperte. Maestro, posso? Oh, vai e basta. Il saggio era più interessato al modo in cui il regno funzionava. Dimmi, donna gentile, perché questo regno lavora di notte e dorme di giorno? Cosa posso dire? Il nostro re è uno sciocco e fa leggi sciocche. Il saggio pensò intensamente a ciò che la donna aveva detto. Maestro, ho preso tutte queste banane, torte e panini così economici. Tutto qui, non importa cosa, costa solo una moneta. Restiamo qui. Un'altra delle sciocche leggi del re, immagino. Dobbiamo andarcene o incontreremo solo guai sulla nostra strada. Il saggio si sforzò di ragionare con il suo discepolo, che voleva rimanere semplicemente per il cibo economico. Molto bene, resta se lo desideri, ma io me ne vado. Il discepolo rimase nel regno e presto si abituò ai loro modi. Mangiava tutto il cibo che voleva e presto divenne molto grasso. È incredibile! Il maestro aveva così torto su questo posto! Un giorno un ladro entrò in una casa per rubare. Ma mentre stava fuggendo, il muro della casa crollò e lo ferì gravemente. Il fratello del ladro andò dal re. Altezza, sono venuto per chiedere giustizia. Mio fratello stava facendo il suo lavoro quando un muro è crollato e lo ha ferito. Il muro appartiene a un mercante. Il mercante fu convocato e arrivò al palazzo molto sorpreso. Quest'uomo dice che è stato il tuo muro a ferire suo fratello. Questo è vero? Sì, mio re, Il muro fu realizzato da miei tempi di mio padre, è crollato sul ladro e io non ho potuto fare niente. Ad ogni modo sarai punito perché il muro ti appartiene. Che cosa? Non è la persona che ha fatto il muro a dover essere punita? Il re ci pensò su e decise che il mercante aveva ragione. Fece chiamare il costruttore, che ora era un uomo molto anziano. Sei stato tu a costruire il muro del mercante? Se sì, allora sei responsabile di aver ferito un uomo innocente. Ma ho costruito quel muro così tanti anni fa. Cosa è stato? Mi ricordo perché non ho costruito quel muro correttamente. C'era una ballerina che camminava su e giù vicino a me e fu il suono delle campanelle sui suoi piedi a distrarmi. Oh, abbiamo finalmente trovato il colpevole. Portatemi questa ballerina adesso. La povera ballerina, che ora era un'anziana signora, tremava mentre veniva portata davanti al re. Sei stata portata qui per essere punita per aver distratto quest'uomo con le tue campanelle mentre stava costruendo un muro. Un muro? Quel muro è crollato e ha ferito un uomo che stava solo facendo il suo lavoro. Mio re, penso che tu abbia preso la persona sbagliata. Stavo camminando su quel sentiero per colpa dell'orafo che faceva i miei gioielli, che continuava a raccontarmi delle scuse. Questo caso diventa ancora più complicato. Portatemi quest'orafo qui e ora. L'orafo venne portato davanti al re e rimase scioccato quando venne accusato di aver ferito un uomo. Bene, non pensi che sia sbagliato quello che hai fatto? Sarai lanciato da una scogliera. Aspetti, per favore, lasciatemi spiegare. È vero che ho fatto venire questa ballerina molte volte a casa mia, ma solo perché dovevo fare una consegna a un mercante molto irrequieto. Non potevo certo ignorarlo, vero? Il re chiese chi fosse questo mercante. L'orafo indicò proprio il mercante stesso. Prendetelo! No, no! È stato mio padre a chiedere il muro, non io! Tuttavia, al re non sembrava che il mercante fosse degno di sedersi nell'enorme carrello. Ordinò di fare subito una ricerca e risultò che l'unica persona abbastanza adatta fosse il povero discepolo Grasso. Lo portarono alla corte del re, dove gli fu spiegato tutto. Ne fu inorridito. Iniziò a chiamare il saggio. Maestro! Maestro! In quel momento il saggio apparve improvvisamente. Tutti ne furono scioccati. Qual è il problema? Il povero discepolo spiegò tutto e il saggio alzò gli occhi e sorrise. Mio re, potrei prendere il posto del mio discepolo? Presto il discepolo capì cosa stesse facendo il suo maestro. No, vostra maestà, buttate me! Avete scelto me per primo! Cosa? Come osi ribellarti ad un mio desiderio? I due iniziarono a litigare, lasciando sconcertato il re. Ma perché volete entrambi essere gettati di sotto? Mio re, vuoi saperlo? Le scogliere occidentali sono in realtà un posto molto speciale. Se qualcuno viene buttato di sotto, viene accolto dalle più potenti fate delle colline che esaudiscono tutti i suoi desideri e ti procurano abbondanti ricchezze e potere, abbastanza da dominare il mondo intero. Oh, ma la persona deve essere spinta solo da una persona santa. Il re ne fu molto sorpreso. Non voleva che questi due uomini venissero benedetti dalle fate. Quindi ordinò al saggio di spingere lui e i suoi ministri dalla scogliera. Pensi che sia pazzo a lasciarti andare via con la torta? No, sono io che voglio essere spinto di sotto. Oh, e anche i miei ministri preferiti. Beh, se questo è l'ordine che mi dai, Altezza. Il re e i suoi ministri furono portati sulla scogliera e messi nel carrello. Il saggio spinse il carrello e un forte grido venne dal re mentre stavano rotolando giù dalla scogliera e urlò: ho cambiato idea! Caddero dalla scogliera e atterrarono sulla rete che era stata messa precedentemente dal saggio. Eccoli lì, intrappolati nella rete come pesci fuori dal mare. Dove sono le fate? Non ci sono fate che esprimono desideri. Sei davvero un re molto sciocco per aver creduto a queste sciocchezze. E allo stesso modo hai scioccamente governato questo regno per tutto questo tempo. Comunque, suppongo che dovremmo andare ora. Beh, aspetta, abbiamo fatto un grosso errore. Quando ero al potere non pensavo alle decisioni sciocche che prendevo. Siamo stati davvero molto sciocchi. Per favore, salvaci. Il re si rese conto del suo errore e fu salvato dal saggio. Sei stato molto saggio e sai come governare il regno. Vorrei che tu e il tuo discepolo foste i nuovi sovrani del regno. Il discepolo accettò in un istante. Il saggio, tuttavia, fu un po' titubante, ma presto fu d'accordo anche lui. Il popolo del regno si rallegrò della notizia dei suoi nuovi sovrani e tutti ne furono felici. La prima cosa che farò sarà di annullare questa sciocca legge e il giorno tornerà a essere giorno e la notte notte. E così il regno tornò ad essere normale. Il discepolo era stato sciocco a ignorare le parole del saggio, ma è stato salvato e ha imparato a vedere un po' più in là del suo naso.